Benvenuti a Dedicato! Oggi, ragazzi, spumeggianti più che mai, torniamo indietro di un paio di mesi e ci catafiondiamo nell'estate 2025, dove in tempi non sospetti, in momenti un po' assurdi e in un luogo per noi magico, ma in realtà un normalissimo luogo di mare, abbiamo fatto parlare lo staff di Dedicato, quello dei giovani. E quindi lasciamo spazio, andiamoli ad ascoltare, perché veramente hanno dato il meglio di loro o il peggio, non lo so, giudicate voi. Va bene, allora siamo con lo staff di Dedicato, finalmente parleranno invece che suonare, visto che al di là della porta sono sempre quelli che suonano questi sono i grandi, finalmente parleranno, direte qualcosa oggi? Sempre. Salve ascoltatori di Radio Fugico. Radio, qual è FM, AM, CQ, CPU? Sì, no, PQRSTUVZ, FM... FM, come si chiama? Si chiama Radio Città Fugico. FM 103.1, vai. Ok, ce l'ha potuta fare a dirlo, ma non serviva a dirlo, perché chi ci ascolta già lo sa dov'è ad ascoltarci. Ah, ok, a posto, basta che lo sappiate. Ah, basta... Bene. Basta. Grazie. Chiudiamo così. Questo è il batterista degli Aster. Ma nonché uno dello staff di Dedicato da molti anni. Cosa dicevi tu? Ma niente, sconsiglio l'ascolto a chiunque. Cioè, non c'è un target demografico specifico particolare. A chiunque di cosa? Cosa devi sconsigliare? Ah, non della nostra trasmissione, quindi di quello che dici tu e i tuoi amici dello staff. Esattamente, esattamente. Molto bene, ma infatti noi non vi facciamo mai parlare, è la prima volta che parlate praticamente, di solito suonate. Sì, c'è qualcuno che deve fare un intervento, una fanciulla. Sì, suonano tutto il giorno, dalle 8 di mattina sul loro patio della casa. Io non ve l'ho detto, ma noi siamo in questo momento tutti assieme in un campeggio a fare una vacanza studio musicale. Facciamo prove tutta la mattina, che si sente fino alla mia casetta, che è dall'altra parte del campeggio. Poi devo dire, questo è un drum camp, si chiamava così una volta, adesso ci sono un sacco di cantanti, bassisti, chitarristi, hanno invaso la piazza, è vero, però effettivamente il bassista lo teniamo in cantina, noi non facciamo rumore, noi suoniamo la batteria piano, giusto? Sì, così sì. L'anno scorso, infatti, per dirne una, i ragazzi avevano montato la batteria in una delle casette del campeggio e ci hanno fatto 5 richiami. Per Global Summit Flottiglia, c'è una voce che spezza il silenzio da tempo che va free free Palestine. Arriva flotta dal fondo, sulle onde del mare, da ogni parte del mondo, con voglio di pace. Porta voce e supporto chi muore ogni giorno, fra piogge di piombo e le bombe su Gaza. Salveranno da terre, paesi lontani, sono più che le stelle sui cieli Gazawi. Ora unite le forme, le forze, la flotta si scontra col vento del mondo che tace. Ma è la flotta più grande che la storia conosca, luci mare nel buio, una galassia nascosta. E Israele una morsa, reso Gaza una gabbia, ad ogni bomba che importa sogna la nuova Nakba. E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combo ora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, da ogni parte del mondo, a convergere in combo ora col cuore a babordo, oggi a Gaza e domani tutta l'umanità. E l'Occidente ora tace perché complice attivo, chiama non divisivo tutto il suo servilismo, dice guerra ai confini ma non colonialismo, dice lungo conflitto invece che genocidio, chiede pace fra parti ma non cambierà mai, chiude gli occhi sui campi, stragi, spari, apartheid. L'Occidente negli highlights si pente ma mente, mentre vende le armi piange sulle macerie. Ma una voce che rompe il silenzio ora un nuovo sentiero, viaggia forte, rincorre una rotta nel vento che fa free free Palestine. Prova a far differenza, Gaza è tutta la striscia, perché l'indifferenza non sia più il paradigma, viene da tutto il globo dopo miglia su miglia. Sostiene anche tu Global Summit Flottilla. E siano quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combo ora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, da ogni parte del salpa in mano. Non c'è silenzio, silenzio, ogni silenzio non lo tornerà mai. Ultima voce di Aman, che filmava la striscia devastata dai tank. Non risuonerà il rap nelle strofe di Swap, che cantava giustizia né Israele né Hamas. Ogni potente sta muto, loop di mille silenzi. Che diremo in futuro a tutti i figli e i superstiti, che ora vaga nel fumo sotto i bombardamenti, ma che ora scappa nel buio in fuga dagli F-16. E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, da ogni parte del mondo, a convergere in combora col cuore a babordo, oggi a Gaza e domani tutta l'umanità. Mori Ubuntu con il suo brano meraviglioso, veramente, in sostegno alla partenza della Global Sumud Flottiglia il 30 di agosto di quest'anno, è uscito con questo brano che veramente mi ha lasciato senza parole e è piaciuto un sacco anche ai nostri ragazzi, perché devo dire una cosa, durante il nostro camp estivo abbiamo parlato molto della questione palestina, perché non è una questione da far passare in secondo piano in nessun modo, soprattutto con i giovani, e quindi ovviamente io li ho provocati, stimolati, e abbiamo ragionato insieme sulla questione palestinese negli ultimi anni, non negli ultimi mesi, quindi ci sono stati proprio dei discorsi, dei dibattiti, ma non solo. Quando siamo saliti sul palcoscenico per il nostro concerto live, i ragazzi hanno voluto mettere una kefia e una bandiera della pace sul palcoscenico. Quindi intanto grazie ragazzi, perché siete stati veramente dei grandi. Abbiamo fatto un discorso sul palco al nostro pubblico ed è stato un discorso importante. E quello che abbiamo suonato di conseguenza a questo discorso, che era poi il brano dei Cranberries, Zombie, è stato altrettanto importante. Quindi tanto facciamo ascoltare un piccolo pezzettino di questo brano cantato live dalla Mascotte, oltretutto, e suonato dagli Aster. E poi c'era un piccolo batterista, al posto del batterista degli Aster c'era Gugli che suonava, quindi ringraziamo anche lui e ve lo facciamo ascoltare. We'll be right back. Bravi ragazzi, la mascotte era arrabbiatissima su questo pezzo perché, come vi ho detto, abbiamo fatto un discorso appunto sulla Palestina, poi abbiamo eseguito questo brano, quindi sul palco lei era inferocita per il discorso guerra, per il discorso Palestina, e quindi è arrivata addirittura a piegarsi in due, a stonare delle note, perché è stata bellissima, scusate, ma lo devo dire. Però vi voglio presentare anche gli Aster, perché vi ho detto che c'era appunto la mascotta, la voce, io di coro, di supporto, perché era una canzone che ci tenevamo a cantare insieme, io e la mascotte, e poi Guglia la batteria, ma il batterista ufficiale degli Aster è Mark. Poi gli altri del gruppo sono Andrea e Giosuè alle chitarre, Alessio al basso e Lorenzo, detto Lollo, alle tastiere. Grandi ragazzi, grazie. Ora torniamo al nostro camp estivo e continuiamo a far parlare lo staff di Dedicato. Dica qualcosa. Prenda il microfono, dica qualcosa. Buonasera. C'è qualcosa di serio? Ah, è molto difficile dire qualcosa di serio. Bombocla! Bombocla! Diciamo malissimo. No, non si può resettare, troppo tardi. Questa va in onda. Questa va in onda, tutta. Vabbè, cose serie, il problema è che non siamo persone serie. A parte i minorenni, tipo i minorenne qua. Quello e Macarena. Che in ogni caso, di chi è tutta la colpa? Tutta? Di Fabio, come sempre, sapete. Quindi, mi raccomando, abbiamo fatto anche le magliette, quindi correte ad acquistarle. Momento sponsor. Link sotto al video. Sì. Comunque, siete i miei colleghi e consiglio ai telespettatori. C'è qualcuno che vuole acqua, limone e zenzero? Per il mal di gola. Dico ai telespettatori, esatto, fatelo in caso di mal di gola se siete dei cantanti. Radioascoltatori. Sì, scusate. Io. La mascotte vuole, certo, la mascotte vuole. Anch'io vorrei una tisana. Grazie, sì. Ecco, vedi, qui siamo già, vedi le cose sane dei ragazzi giovani di oggi. Però torniamo a È tutta colpa di Fabio. Perché? Perché noi abbiamo Fabio. Cioè, non è una roba... Fabio! È proprio Fabio. Salve. Ho perso le parole. Va bene, grazie Fabio. Vedi che è sempre colpa tua, cioè non ce la possiamo fare qua andare avanti. Adesso lasciamo invece il microfono a un batterista strano, perché ne abbiamo pochi noi di batteristi qua. Prego, batterista. Salve ascoltatore, come va? Come va? Mica ti possono rispondere. Come va? No, adesso lascio uno spazio di silenzio per così posso rispondere. Come? Aspetta, Stranamente, silenzio. Aspetta, devono rispondere. Ascoltatori, come va a casa? Silenzio. Mi raccomando, silenzio assoluto. Ok, adesso spero abbiate risposto, perché sennò siete lenti. Siete lenti. Vi sembrerà ubriaco, ma stranamente è così di norma del suo. No, lui anche è perché minorenne. Non bevo, non fumo. E neanche voi, vero ascoltatori? Silenzio. Sì. Stanno rispondendo gli ascoltatori. Ok, adesso potete. È tipo Dora l'esploratrice, presente? Oh, c'è una scimmia. Ok, adesso possiamo andare. È interattivo. Non so se ho fatto bene a far parlare lo staff dedicato oppure no. Grace. Noi dello stadio dedicato è meglio far suonare a questo punto, sì, o ma cantare. Anche tu, ecco, diciamo una cosa, no? Diciamo la vera verità. Anche tu, cosa suoni? Cosa suoni? Anch'io suono la batteria. Suona il clacson. Il clacson? Quello del motorino, sì, che è dal meccanico. No, quello dei mini moto. Però andiamo avanti nel nostro sondaggio. Allora, un batterista ha parlato, l'altro ha parlato. Lei, Fabio. Fabio, che è tutta colpa tua. Cosa suoni? No, è che sono un batterista, sono un po' tardo di mente. Ah, i batteristi, perché sei rallentato. Mi ci volevano quei 10 secondi per elaborare ciò che mi hai chiesto. Ah, ok. Devo specificare una cosa, che essendo qua con The Aster Band, il bassista in tutto questo lo teniamo di sotto nella cantina del camping, ogni tanto gli diamo da mangiare, come al solito fare con i bassisti delle band. Invece noi batteristi, cantanti, chitarristi siamo qua che facciamo un po' di festa. Non mi preoccupo. Ok, il bassista chiuso. Sì, sì, sì, lo stiamo nutrendo per bene. No, sta stagionando. Scusate, ma Scott, vai a aprire al bassista, per favore. No, il bassista che graffia. Scusi, lei che cosa suona? Io sempre la batteria. Ok, no, non siamo molto originali in questo caso. No, in questo caso. Però suoniamo anche la grattugia, se volete. Cioè, ma soprattutto. Questa era una grattugia che batteva sul tavolo, ve lo dico perché a voi sembrava. Aspetta. Che bella nota. Questo strumento si chiama guiro ed era una grattugia suonata con una forchetta che imita il suono del guiro. Sentiamo. Oh. Ok. Sono proprio dei veri batteristi. Senta, lei scusi, cosa fa? Cosa suona? Cosa fa? Io canto. Se la mia voce si ritorna tra noi, insomma. Che lei... La voce ritornerà. Ritornerà. Infatti, il mio rimedio di limone, zenzero e miele serve proprio per far tornare le voci, esatto, a noi cantanti. Perché vabbè, lei che cosa fa invece? Anche io canto. Lei canta, okay, ma è anche un po', diciamo, la mamma di tutti, la cuoca, perché è palermitana, no? E cosa c'entra? No, questo è un discorso che non mi piace. Cioè, staff, ci piace questo discorso? Che... No. È un discorso che purtroppo lui sta facendo per un motivo molto specifico che non so se posso far sapere. Quindi... No, se è colpa di Fabio. Fabio, non si suonano così le bottigliette di vetro. Dammi la bottiglietta di vetro. Ecco. Molto bene, molto bene. Suonano anche gli strumenti a fiato, oltre che le percussioni. Allora, chi manca? La mascotte. Manca. La mascotte. Ah, io sono un batterista taciturno. No, l'ho già detto. Però sì, qua mi sembra che ci siano troppe parole in gioco. Hai ragione. Questo hai ragione. E taciturno. Esatto. I am Skibidi Bop. Tralala, tralala. Tum tum tum tum tum. Abbiamo ascoltato, oltre alle mille parole dello staff di Dedicato, finalmente in radio a parlare, ma anche li abbiamo ascoltati suonare in live, sempre in questo concerto che abbiamo fatto alla fine del nostro camp. E alle voci c'erano Sofì e Noemi. Alla batteria c'era Lollo, che non è il tastierista degli Aster, ma è un altro Lollo, sempre Lorenzo. E poi il resto degli Aster, quindi le due chitarre e il basso e la tastiera. Grazie ragazzi! Allora, noi vi facciamo ascoltare piccoli spezzoni di musica e tante parole, perché i ragazzi avevano veramente voglia di chiacchierare e di raccontarsi in radio, e quindi noi andiamo avanti ad ascoltarli e andremo avanti ad ascoltarli anche la prossima puntata. Quindi intanto mettiamoci avanti. Aspetta, mascotte, ripeti, scusa, non ho capito. Perché lui è antipatico. Ma chi? Lui? Andrea. Ma no, allora, a parte che finalmente abbiamo un chitarrista tra noi, abbiamo smesso con sti batteristi che veramente non se ne può più. No, veramente. Com'è sta storia? Sono tutti batteristi qua. Non è ancora arrivato il bassista perché l'abbiamo rinchiuso nel seminterrato. Ah, lo sapevi tu che il bassista è rinchiuso nel seminterrato? Sì. È arrivato un pianista. Ah, lo sapevi anche te? Ma non si fanno ste robe ai bassisti. Si chiama Mario. Perché no? È arrivato un pianista. Come, perché no? Non si chiudono i bassisti nei seminterrati. Sì, invece. Ma lo state nutrendo almeno? No. Questo è il tastierista, non so se vi rendete conto. Cioè, I bassisti si nutrono di invidia. Addirittura, ma siete cattivi. Oh, ma ragazzi, voi siete batteristi, lo sapete che i bassisti sono le persone più importanti che potreste avere di fianco sul palco? Ma ve ne rendete conto? Ma noi gli vogliamo bene. Infatti il batterista lo teniamo rinchiuso insieme a lui. No, il batterista è qua che dice cavolate insieme a noi. È la sora d'aria. È la sora d'aria. Ah, è la sua ora d'aria, ho capito. L'abbiamo lasciato libero. Freedom, ecco, sentiamo il batterista. Pace. Ma pace. Dove ti chiudono di solito? Ah, in un attico, 3 stelle. Vabbè, a Dubai. 3 stelle è meglio del bassista. Beh, sì. Non ci parlano. Noi lo teniamo meglio perché lui deve suonare bene. Se il bassista fa qualcosa di sbagliato, chi se ne frega? Lui deve suonare bene. Ah, ho capito. Gli abbassate l'ampli e non si sente più il bassista. Sì. Invece il batterista è importante. Okay. Non possiamo abbassarlo. Non potete abbassarlo, anche perché è alto 1,90 m, quindi abbassarlo non è la vedo un po' grigia. Sì. Va bene, il chitarrista ha qualcosa da dire per questa trasmissione radio che sta prendendo un'onda demenziale. Mascotte, argomenti. Perché? Questo poi è uno dei due chitarristi lui che abbiamo. Con me. Ma chi? Questo chitarrista? Non mi sì. Sembra. E perché? Perché mi volevi mangiare. Ti volevi mangiare la mascotte? Ma no. No. Mascotte, faccia la persona adulta e mi dica, come suona questo chitarrista? Suona da Dio, diciamo. Io non me ne intendo, sono ancora arrabbiata con lui finché non mi chiede scusa per avermi cercato di mangiare. Ah, tu vuoi le scuse ufficiali in trasmissione, quindi? Sì. Cioè, chiedi scuse ufficiali perché sennò la mascotte va avanti due puntate. Ti chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Il tastierista l'abbiamo perso, è ancora sul palco che studia Runaway. Sì, sono ancora lì. A decidere se suonarla col mignolo o con l'anulare. Molto bene, grazie a tutti. Siamo arrivati alla fine anche di questa terza puntata di Dedicato e salutiamo i nostri ragazzi, tutti quelli dello staff, anche i piccoli che non hanno partecipato attivamente alle nostre chiacchiere, ma perché, ammettiamo, le abbiamo fatte di sera, quindi i piccoli erano per altri lidi in giro in bicicletta per il campeggio. Ma la prossima puntata ascolteremo ancora un pochettino dei nostri ragazzi. Hanno ancora qualcosa da dire, ci sono delle sorprese per questo bassista che non si sa bene in quale scantinato sia rinchiuso, speriamo che adesso non sia più rinchiuso perché sono passati mesi e se l'hanno lasciato al camping, poveretto, si passa l'inverno lì. Quindi ciao Alessio, speriamo che tu non sia più nello scantinato. Detto ciò, ci sentiamo la prossima settimana, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko, con dedicato. Ciao!